Anni 10. Suoni, parole e figure di Stefano Pistolini. Sono stati dei casi, certe situazioni, dove alcuni dei nostri della troupe sono stati colpiti con delle frecce dagli indiani. E semplicemente con la punta della freccia che gli attraversava la gola e l'ha colpito sulla spalla. Una donna invece è stata colpita all'addome. Abbiamo dovuto operarli sul tavolo di cucina perché non era possibile trasportarli. Ed entrambi sono sopravvissuti. Quando gli indiani fanno sul serio, Bene, partiamo da qui, partiamo dagli indiani che fanno sul serio, che ci sembra un punto di partenza interessante per cominciare un programma che è anche un'avventura, è anche naturalmente una proposta ed è anche un nome. Il nome in questione è Anni 10, perché finalmente ce l'abbiamo fatta e siamo entrati in un decennio, in un periodo di tempo, insomma, in uno spicchio della nostra vita che ha anche un nome dopo il lungo anonimato di quelli che erano anni zero, insomma, non si capiva bene dove fossimo, dove vivessimo, e in questa direzione, in questo cammino, in questa evoluzione, come si sa, le cose cambiano e un po' di questo si occupa Anni 10, la cui missione, il cui mandato è di servizio, è lavorare per voi, selezionando, scegliendo o provando a proporre alla vostra attenzione una serie di quelli che pomposamente si chiamano prodotti culturali, ma che poi sono i libri, i film, i programmi televisivi, i dischi, i siti web, anche semplicemente le notizie, i pezzi di giornale, di magazine, cose di cui prendere nota, magari da cercare, da procurarsi e da affrontare in prima persona dopo aver colto la segnalazione di qualcuno che lo fa per conto vostro, nella fattispecie il sottoscritto, perché lo faccio di mestiere, ho più tempo da dedicare alla questione. Però attorno a tutto ciò, attorno a tutto questo ragionamento, attorno all'idea di prodotto culturale, circola anche un grande cambiamento. E questo è un po' lo sfondo sul quale nel programma noi abbiamo intenzione di muoverci, perché le cose appunto stanno cambiando, si stanno anche confondendo, stanno nascendo delle nuove contaminazioni, si stanno muovendo, sono state aperte, no, per esempio delle porte girevoli nella cultura e nella società del contemporaneo che ci interessa analizzare, porte girevoli per esempio come queste qui. I'm grinning today and I'm so appreciative of the opportunity to get to work with you and the other team members here at Fox News to provide the fair and the balanced reporting and analysis that voters in this country deserve. Parole di Sara Palin, la candidata che con attenzione, con curiosità abbiamo seguito durante la rincorsa alla Casa Bianca 2008, che adesso però di mestiere fa un altro mestiere, anche perché si è dimessa dalla poltrona di governatrice dell'Alaska e si occupa di televisione. Le porte girevoli in questione, di cui ci interessa parlare perché sono uno degli aspetti della comunicazione, dell'informazione, ma anche della cultura, della produzione culturale del contenuto, sono anche questi, la nuova disinvoltura con cui ci si sposta, no, da un settore all'altro dell'essere pubblico, del vivere pubblico. Per esempio si è uomini politici, ma domani si può essere conduttori televisivi e poi magari dopodomani di nuovo personaggi politici, personaggi pubblici, e quindi continuare a roteare in questa diversa configurazione, una diversa configurazione che soprattutto per i più piccoli, no, quelli che nascono adesso, deve tener conto anche di un nuovo dato, un nuovo fattore vettoriale decisivo che sta cambiando la nostra cultura e probabilmente la sta anche minacciando, questo qui. Mi sono fatto 87 giorni di carcere, più di 50 giorni di arresti domiciliari per essere prosciolto. E questo penso che sia un caso eclatante. E poi per tantissime cose che stanno succedendo. Corona, no? Fabrizio Corona, ormai un abitué dei teleschermi italiani per ora, poi chissà, la provvidenza non può essere limitata, ma il gossip appunto è un altro fattore del contemporaneo che ci interessa molto, anche perché come sempre è stato già, no, spostato verso l'alto, tirato sociologicamente verso l'alto. Adesso il gossip negli ambienti come si deve si chiama trasparenza digitale, no? La possibilità di guardare dentro la vita dei personaggi pubblici e di trasformare questa trasparenza digitale e questo passatempo, che però così tanto condiziona e incide sul presente, in un mainstream, come si dice, in un modo di vita, cioè un modo di vita che come interesse principale non ha più magari il cinema, la musica, le arti, i prodotti culturali, ma il guardare, no? Guardare i peccati degli altri, che poi si inseguono a vicenda, diventano a loro volta i peccati oggetti culturali. Allora noi tiriamo qui a anni 10 una piccola linea e torniamo un po' ai prodotti culturali e li scegliamo per voi, li studiamo, ve li proponiamo e saranno cose spesso strane, spesso particolari, spero sempre interessanti. Anni 10. Suoni, parole e figure. Shylock is my name. Shylock is my name, la voce inconfondibile, bastano tre parole per riconoscerlo, è quella di Al Pacino, qui impegnato nel mercante di Venezia, però protagonista di una notizia che è a margine delle nostre proposte, delle nostre scelte, dei nostri racconti vi vogliamo dare, perché vi daremo anche notizie di questo genere. Qui si parla della sezione, del capitolo parole, no? Il sottotitolo di Anni 10 è Suoni, parole e figure, quindi si parla di libri essenzialmente, naturalmente saggistica, narrativa, cose che ci hanno incuriosito, cose nuovissime che vogliamo sottoporre alla vostra attenzione, o addirittura dei piccoli fatti che ne discendono, come questo aneddoto di cui siamo venuti a conoscenza, che riguarda per l'appunto Al Pacino e riguarda un libro di un autore che adoriamo e siamo sicuri di non essere soli, che si chiama Philip Roth, di cui l'ultimo romanzo con il titolo La mortificazione è in uscita prossimamente anche in Italia, all'interno di questa sterminata, formidabile produzione di cui Philip Roth è titolare e soprattutto è capace. Ebbene, in casa di un amico americano, di un amico newyorkese, è avvenuto il fatale incontro richiesto, voluto da Al Pacino con Philip Roth, che da tanto tempo ammira, di cui legge la vasta produzione narrativa, per chiedergli l'autorizzazione a procedere alla trasposizione cinematografica. La storia di Simon Axler, no? Questo attore che improvvisamente perde il suo tocco, questa è la trama, l'inizio, l'attacco della mortificazione, appunto la mortificazione dell'attore che non è più tale. È inevitabile che una vicenda di questo genere abbia colpito una personalità come Al Pacino, che proprio dell'essere attore, del vivere la recitazione, ha fatto la propria missione, il senso della propria esistenza, e probabilmente passare attraverso questa trasposizione per lui è stato un richiamo irresistibile, in cui appunto oltre alla italianità di Pacino c'è anche una responsabilità di un amico americano che ha organizzato l'incontro in questione. My assessment of not just the vote in Massachusetts, but the mood around the country. The same thing that swept Scott Brown into office swept me into office. People are angry and they're frustrated. Questa è la voce di Barack Obama, che così spesso risuona a Radio 24, e mi onoro di sentirla spesso risuonare nei dintorni di quando risuona la mia. In questo caso però ci occupiamo appunto di libri, ci occupiamo di saggistica, ci occupiamo anche di Obama, che come diceva poco fa è in questo momento in disgrazia per lo stesso motivo per cui è stato così in alto, è salito così in alto, perché gli americani sono arrabbiati e non smettono di essere inquieti nella loro ricerca di una possibilità. La rincorsa elettorale di Obama fu formidabile, fu una storia grandissima che non ci stanchiamo di ripercorrere, ma ora lo fa con una capacità straordinaria, un libro che appunto vi voglio segnalare. Voi direte: un altro libro sulla campagna elettorale di Obama? Sì, un altro libro, perché valeva la pena di scriverlo, perché chi lo ha scritto, la campagna elettorale l'ha fatta veramente, è stato là giorno per giorno per quasi due anni di traversamento dell'America e soprattutto di confronto mediatico con ogni media possibile tra il presidente, allora candidato, gli altri candidati che sono coprotagonisti di questo libro, e il paese che doveva produrre la propria scelta. Dunque, il libro si chiama Game Change, il sottotitolo è Obama and the Clintons, McCain and Palin and the Race of a Lifetime, che vuol dire Obama, i Clinton, McCain, la Palin e la corsa di una vita. Gli autori si chiamano John Heilemann e Mark Halperlin. Vi segnalo che se lo andate a cercare, se ve lo volete comprare, non in una libreria internazionale italiana, ma su un sito internet dei tanti che vendono libri e sono il libro è ampiamente disponibile, e lo cercate per comodità, come spesso si fa dall'Italia, in un sito britannico anziché americano, perché arriva prima ed è più semplice comprarlo. Il titolo del libro in questo caso è diverso, è stato cambiato dall'editore inglese e non è Game Change ma è il sottotitolo, ovvero Race of a Lifetime, la corsa di una vita. Naturalmente gli autori restano gli stessi, John Heilman e Mark Harperlin, quindi se cercate in base ai loro nomi è meglio. Poi alla fine proverò a riassumere un po' di nomi che troverete comunque, attenzione, ecco questo è un annuncio di servizio, tutto ciò che vi diciamo lo trovate poi sulle pagine Facebook di Anni 10. Le pagine Facebook sono due, uno per parlare con noi e si chiama Anni 10, uno per vedere di che cosa abbiamo parlato e un po' di materiali corrispondenti. Ci arrivate attraverso il sito di Radio 24 che vi porta sparati, sulla scheda del programma vi porta sparati anche a queste pagine. La pagina in questione si chiama Anni 10 Radio 24 per l'appunto. Ancora due parole sul libro di Heilman e Halperlin. C'è l'analisi politica ma c'è soprattutto il giorno per giorno, questa è la parte divertente del libro, perché poi la sostanza del discorso è che anche se uno è candidato presidenziale, anche se è a un passo dalla Casa Bianca, anzi anche se abita alla Casa Bianca, poi è un essere umano come noi, che per esempio gode di antipatie e simpatie, che fa cose fantastiche ma poi fa delle castronerie terrificanti, che ha un rapporto magari complicato con la moglie, una moglie che gli dà degli ordini, smetti di fumare Barack, e lui ha smesso di fumare, se no lei ha detto chiaro e tondo non arriverai fino in fondo. O la storia della discesa di Sarah Palin nel terrorizzato staff repubblicano, con Schmidt, il capo, il stratega di McCain, che avvisava tutti gli aiutanti: statevene bene accorti perché questa qui non sa niente, gli disse, così raccontano i nostri giornalisti. Halperlin ha seguito tutta la campagna elettorale per Time, la cronaca qua è davvero divertente ed è l'occasione giusta per ripercorrerla anche, no, poi alla luce di questi cambiamenti, di quello che è successo dopo, di come una volta che si è diventati presidenti in realtà il lavoro è solo cominciato. Okay, I'm getting translation here and I'm having trouble hearing you. Okay, I can hear you now. Salve signorina, è molto bella, non capisco. C'è qualcos'altro che mi distrae, quindi non riesco a... Just a second. Salve. Ciao, lei chi è? Sono Laura Perego. Bene, complimenti per le zizzette, però noi dovremmo andare avanti. Guardi, siamo abituati alle zizze e non c'è problema. Grazie, piano piano per favore, vi chiedo la cortesia, era venuta assolutamente in maniera pacifica. Grazie, grazie, grazie. L'hanno cacciata via? Anche noi abbiamo gli streakers, bene. Dunque anche noi abbiamo gli streakers, questa era Bonolis a Sanremo con un ospite divertito, ma in pigiama però sinceramente questo è un po' discutibile, che era Hugh Hefner, il grande padre, diamogli questa qualifica, di Playboy, e questo era il momento piuttosto memorabile a modo suo nelle cantine della cultura popolare della ennesima irruzione sanremese, e quella della pornostar Laura Perego. Ne parliamo perché c'è un altro libro che non è affatto un libro di gossip o di pettegolezzi come stavamo ragionando poco fa, ma invece è un libro alto dedicato a Playboy. Libro alto perché è scritto da una studiosa rispettabile e riverita che ha analizzato il tutto da un punto di vista sociale che è molto divertente, è un tantino impegnativo ma assai originale e particolare. Allora, l'autrice del libro si chiama Elisabeth Fraterrigo, un nome di evidenti ascendenze italiane, anche questo, Elisabeth Fraterrigo, e il libro in questione è intitolato Playboy and the Making of Good Life in Modern America, ovvero Playboy e come si è creata una buona vita, una vita piacevole nell'America moderna. E in realtà la Fraterrigo, che è poi una storica del sociale americano, trae proprio la conclusione che anche una rivista che nel 1954 ha contribuito a modificare il costume americano alternando ad articoli a grande firma e a tematica impegnativa, spesso a tematica sociale, spesso all'avanguardia nell'annunciare, nell'analizzare cambiamenti sociali. Poi c'erano quelle famose ragazze spogliate, quelle ragazze nude, no? un piccolo diversivo dalle ansietà della età atomica era lo slogan, il primo slogan varato da questo disegnatore, che era Hefner, agli inizi, quando era veramente un innovatore. Nasce da qua il personaggio del metrosexual, il protagonista urbano del contemporaneo. Il nudo resta, diventa qualcosa di inumano, quasi di divino ancora in queste pagine, prima di piombare, no? Di cadere nella pornografia del presente. Il nudo che è qualcosa di illusorio come i nomi della Playmate, che però sono alternati a ragionamenti veri. Era peccaminoso tutto ciò, era astuto, era segno di un cambiamento reale. Un saggio come quello di Elizabeth Fraterrigo si dedica proprio a cercare di capire se c'è, come dire, una possibilità decente del nudo di belle ragazze. Anni 10, suoni, parole e figure. Spazio della, dei suoni della musica, dove quindi proveremo a cercare anche qua, a individuare, a raccontarvi, a consigliarvi, a cercare per voi che magari non avete tutto il tempo necessario delle cose un po' particolari oppure delle letture un po' particolari di cose invece ampiamente visibili e vogliamo così evitare un po' anche quel senso di colpa nel cominciare parlando di un personaggio che se n'è appena andato, insomma una proposta, le famose proposte postume, no? Salvare ormai quando salvare il salvabile sembra impossibile, però invece valorizzare un personaggio è qualcosa che va al di là anche della biografia del personaggio stesso. Questa è la voce che avete appena ascoltato, appartiene a una artista, si chiama Lasa de Sela, ma nota nel mondo della musica semplicemente come Lasa, nella scena soprattutto del folk americano, che è scomparsa dopo una breve malattia il primo giorno del 2010, il primo giorno proprio degli anni 10, a soli 37 anni, e dopo con una produzione musicale non densa ma di qualità particolare, per non dire assai elevata, essersi messa in luce, fatta notare nel circuito più scelto, più sofisticato della musica folk americana. La fattispecie, la particolarità di Lasa è quella di essere stata e di essere davvero una figlia dei tempi, no? Il suo dato biografico più importante è una specie di globalizzazione incarnata dalla sua figura. Era di padre messicano, di madre americana, era cresciuta in giro per il mondo, era stata in Canada, aveva vissuto anche in Oriente, si era trasferita poi in Francia, si era unita addirittura a un circo, aveva una tipica biografia avventurosa di certe personalità radical, e in tutto ciò aveva trovato il tempo di pubblicare tre album. Nel 98 il primo, intitolato La Lorona, nel 2003 il secondo, The Living Road, e invece quello che porta proprio il suo nome e anche certamente il più ambizioso, c'era una major, questa volta la Warner, dietro questa produzione, appena l'anno scorso, pochi mesi prima di scomparire, appunto con il titolo Lasa. Si iscrive questo nome, ripeto, postumo, ma per quanti artisti è capitato, quanti sono diventati veramente famosi dopo essere morti? Un nome per tutti, a me particolarmente caro, che cerco di ripetere ogni volta che è possibile, quello di Nick Drake, per esempio, no? Sconosciuto, anzi ucciso dall'insuccesso, successo, e oggi una star condivisa addirittura intergenerazionale. Non so se succederà lo stesso per Lasa, tra l'altro il nome si scrive con l'H, L-H-A-S-A, ma vi invito ora ad ascoltarla, a valutare veramente come poi la musica, come si dice, vada oltre. Ecco Lasa. Say hard promise to voce di Lasa che avete ascoltato, forse scoperto oggi. L'album in questione porta il suo nome, il brano era Fool's Gold. Abbiamo cosparso, forse ve ne sarete accorti, di voci femminili questa prima puntata di anni 10, prima di tutto perché la scena, soprattutto delle personalità emergenti femminili, è straordinariamente vivace e senza distinzioni di confini, e quindi saranno spesso e volentieri al femminile le segnalazioni musicali che vi faremo. Avrete ascoltato, se avete seguito il programma dall'inizio, un'altra voce che è già apparsa un paio di volte in trasmissione, una voce italiana, ed a questo punto ve la segnaliamo ufficialmente. Si chiama Angelica Lubian, è una ragazza di Udine, ha 24 anni, ha un album appena pubblicato che si intitola Conservare in luogo fresco e asciutto. Si inserisce in una tradizione ormai che si va consolidando di eccellente qualità interpretativa declinata in italiano, in lingua italiana, e soprattutto in utilizzo musicale, in valorizzazione musicale dell'italiano, spesso con sofisticatezze esecutive e anche con alcune ambizioni contenutistiche, come proprio quelle delle storie che Angelica Lubian racconta nelle sue canzoni. La ascoltiamo di nuovo, questo pezzo tratto da Conservare in luogo fresco e asciutto di Angelica Lubian, si intitola Lo spazzolino, eccolo. Senti il polso, sì, l'aria intorno garantisce l'esistenza, anche se c'è chi di alimentare il fuoco per bruciarmi tutto, l'ossigeno. Al punto giusto che ci saranno tempi duri e vacche madre per te. Bene, se vi ha divertito, se vi è piaciuto, aggiungete il nome di Angelica Lubian alle vostre ricerche, magari alla vostra lista degli acquisti, addirittura, insomma, datele se volete una possibilità. Invece uno che le possibilità ormai da una ventina d'anni se le prende da sole è questo signore qui. Siamo venuti in uno studio bellissimo, pieno di giocattoli mirabolanti. Saremo qua 3 giorni, lo scopo del primo giorno è quello di provare a buttare giù l'idea per una canzone che mi ha chiesto Gabriele Muccino, perché stanno girando il film nuovo di Muccino a Roma, che è il seguito dell'ultimo bacio, il film si chiama Baciami Ancora. Allora mi ha chiamato Gabriele, ci siamo incontrati prima che io venisse a New York, perché mi ha chiesto la canzone del film, insomma il title track, come si dice. Giovanotti, o si odia o si ama, no? Sembra ormai fa parte, questo è un proverbio, diciamo, della Italia degli anni 10. E Giovanotti ha fatto il brano portante di chiusura che porta il titolo del film di Gabriele Muccino, ne parleremo ancora anche tra qualche istante. Ma invece, restando su Giovanotti, ha ottenuto un successo straordinario, sono dati delle ultime ore. 500.000+ di visite su YouTube, dove tra l'altro vi segnalo c'è un making of da cui abbiamo tratto queste voci, molto divertente, di come è stata realizzata e come è nata questa canzone, direttamente al numero uno dei brani più scaricati di iTunes, e soprattutto una proposta musicale che porta avanti, no, un certo genere Giovanotti. Esistono tanti Giovanotti in giro, nella stessa persona, un po' schizofrenica, ma quello che ormai si fa cronista di un certo modo di essere italiani a inizio terzo millennio mi sembra quello prevalente, forse anche quello più interessante. Ma sentiamolo ancora mentre racconta come questa piccola avventura è cominciata. La mia idea è quella di realizzare

all is fair in love. Questo è il posto da dove sono partiti tutti i nostri sogni. Tra quanti giorni ci rivediamo? Questi già cominciano a strillare, a gridare per la loro emotività. Siamo entrati nello spazio delle figure di anni 10, ma siamo rimasti a Muccino, perché stiamo entrando in un momento mucciniano dell'attualità italiana. E è come per Jovanotti, no? Volenti o nolenti, anche parlando delle figure, appunto, attorno a questi argomenti un po' si ragionerà, credo anche come al solito un po' si litigherà, perché il odiami vale anche per Muccino, no? Fenomeno romantico, la via del cuore, il trionfo del privato. Vi sto anticipando dei possibili titoli che leggerete presto sui giornali, no? Il distacco, il piccolo gruppo, grandi e piccini, non si cresce mai, la prevalenza del personale, no? Quella così invisa ai morettiani. E in realtà al centro di questa storia di trentenni che sono diventati quarantenni sono quasi tutti gli stessi, guidati naturalmente da Stefano Accorsi. Poi c'è Santa Maria, Pasotti, c'è la Puccini al posto della Mezzogiorno, ma insomma il cast si ricompone. La rappresentazione di questa Italia normale ma attuale, ma difficilmente classificabile, borghese, forse c'è, vedremo quanto vale. Poi c'è Jovanotti che dice che lui e Muccino sono praticamente gemelli, e quindi noi ne prendiamo atto, capiamo che esiste, come dire, un substrato che poi è quello che farà anche gli incassi di questi prodotti, la cui definizione è complicata ma è interessante per poi capire dove siamo e soprattutto chi ci sta intorno. È naturalmente una cosa da fare, una cosa ben fatta. Una cosa ben fatta è anche non dimenticarsi però che esiste, per esempio, parlando di cinema di figure, un approccio completamente diverso, no? Estremo, forte, dove l'intellettualismo regna, la voglia di pensare, di rischiare, di elucubrare, di darsi tutti, no? L'Herzog degli indiani con cui abbiamo aperto il programma, l'Herzog capace di una scena memorabile che vogliamo che voi vediate, poi la vediate anche con i vostri occhi su YouTube andandola a ripescare, ma intanto sentite questo. We wanted to get a quick exterior shot of Herzog in his native habitat when things took an unexpected turn. In Germany, I've somehow left a paved road. Mm-hmm. Nobody cares about my films. For example, what's... Ecco, avete sentito questo botto fatto così? Dunque, la voce iniziale, vi do un po' l'ambientazione, era quella di Mark Kermode, che è un buon critico cinematografico inglese che lavora per l'Observer. Era andato a intervistare a Los Angeles, dove adesso vive Werner Herzog. Guardate tutto questo, poi ve lo potete guardare, cercate Kermode Herzog su YouTube e lo vedrete. E gli cominciava a fare le sue, insomma, complicate, un po' cervellotiche domande sulla produzione attuale di Herzog, quando succede una cosa che, vi garantisco, può succedere solo a Herzog, perché è l'impersonificazione di un cinema e forse se le tira pure allora queste cose, no? Dove il rischio, la partecipazione, insomma, quelli che sostenevano che il cinema è meglio della vita, vi ricordate? Herzog è forse una delle punte, insieme al suo connazionale Wenders, di questo modo d'essere, forse 900, forse 20° secolo, ma non so, forse a rimpiangere, può darsi. Ebbene, gli hanno sparato. Quel botto che hanno sentito che avete sentito è un colpo di fucile a piombini che qualcuno, rimasto ignoto, ha sparato nei confronti di Herzog mentre questo disgraziato stava dando la sua brava intervista. Sentite come continua il pezzo. We quickly realized that some wacko had taken a pot shot at us with an air rifle. Werner insisted that he was not. Ecco, qui c'è il giornalista che dice: ci siamo resi conto che un teppista aveva sparato al povero Werner, e lui negava e diceva: ma no, non importa, però sarebbe meglio se ci spostiamo. Beh, certo, ti hanno sparato addosso, insomma. Di fatto noi anche questo cinema, anche queste figure le continuiamo a seguire con grande passione, con grande attenzione, e invitiamo voi a fare lo stesso. Di Herzog ci sono addirittura due film, perché lui è un bulimico, no? Produce come un dannato. in circolazione. Uno è il remake del Cattivo Tenente, Ultima chiamata a New Orleans, si chiama, il remake del film di Abel Ferrara. L'altro, come al solito, è un film che ha fatto mentre faceva l'altro, perché lui li fa due o tre alla volta, poi li suddivide, li mescola, li incasina in ogni modo possibile. Si chiama My Son, What Have You Done? Figlio mio, che cosa hai fatto? È una specie di film escrescenza che nella mente di questo maestro formidabile, la cui produzione è veramente rara, è veramente da cercare in DVD nei posti giusti, o è veramente da grattare almeno un po' su internet, dentro YouTube trovate certe cose, o comunque nei siti di visione, ma che resta una formidabile alternativa possibile, no? Al grande, al mainstream, alle norme, insomma, a questo qua. Sei Jack Sully? Vorremmo parlarti di una nuova vita su un nuovo mondo. Potrai impegnarti in qualcosa di importante e decisivo. Sono diventato un marine per il lavoro duro. Mi sono detto che potevo superare tutti i test che un uomo può superare. Io ho sempre cercato la sola cosa per Avatar, no, James Cameron, il film di cui è inevitabile parlare, ma sul quale soprattutto sembra piuttosto inevitabile ragionare, se è vero che in questo suo debutto, inizio di corsa, una corsa che finirà chissà dove, ha messo insieme $1.6 miliardi in tutto il mondo come incassi, e pensate che a fronte del, insomma, gravoso budget di 230 milioni, Cameron era molto preoccupato: oddio, se faccio un flop qui andiamo tutti a gambe per aria. Invece Avatar sembra avviato seriamente a diventare il più grande incasso nella storia di tutti i tempi del cinema, mettendo in fila un certo Titanic che portava la firma sempre di James Cameron. Quindi qui c'è qualcosa da capire sull'uomo oltre che sul film, e per fare questo vi do una indicazione che credo possa cogliere i vostri interessi, una intervista notevole, davvero notevole, un'intervista ritratto, analisi, indagine, inchiesta, chiamatela come vi pare, pubblicata sul sito americano del magazine Rolling Stone, gloriosissimo, no? Vetusto Rolling Stone. L'intervista si intitola The Impossible Reality of James Cameron, la realtà impossibile di James Cameron, e ha una capacità, quella di farvi venire la voglia di vedere il film, di vedere Avatar, non tanto per la storia, per gli uomini blu, per questa idea, peraltro carina, buona, dei terrestri che diventano loro, no, gli alieni colonizzatori di un pianeta, mica stiamo sempre a aspettare i Visitors, lo diventiamo noi Visitors, ma invece per capire come è stato fatto, perché questo primo 3D per adulti, come lo stesso Cameron definisce il proprio lavoro, ha delle caratteristiche particolari, delle caratteristiche straordinarie che in un certo senso potrebbero rappresentare il nuovo giro di pagina, secondo le idee del regista canadese, dopo il sonoro, ovvero è nato il cinema, poi all'imbocco degli anni 30, alla fine dei 20, è arrivato il sonoro, poi 80 anni più tardi, negli anni 10 per l'appunto, è successo qualcos'altro. Inizialmente è questione, lo sappiamo, di occhialetti e di una visione particolare, ma l'idea di entrare, di portare lo spettatore dentro il film, non più davanti al film, è quella che sta infiammando questo ex nerd, no? Poi c'è un ritratto personale giovanile di Cameron nella intervista, che è firmata da Eric Idegard, molto molto divertente, molto interessante. Dove si finirà non si sa, di sicuro lui ha inventato buona parte dei suoi milioni di dollari spesi, li ha messi in tecnologia, ha inventato una macchina 3D che pesa la decima parte di quelle abitualmente utilizzate, è come un camcorder, insomma sta tirando veramente il gruppo. E per parlare di tutto ciò, per approfondire l'argomento, quindi per andare oltre, no, la visione critica o semplicemente emotiva di Avatar, questa intervista di Rolling Stone, vi garantisco, è il posto giusto. Avete capito che aria tira negli anni 10? Questa cosa qua, a fine anni 90 si chiamava il grande mescolo, no? Si diceva alto e basso, vi ricordate? Beh, qualcosa del genere sta succedendo, non è più destra-sinistra, sicuramente non è più alto-basso, è qualcos'altro, ma sicuramente c'è un cambiamento all'interno dei quali individuare i prodotti culturali può essere complicato e forse collocarli diversamente può essere interessante. Oggi abbiamo parlato di Avatar, vi abbiamo parlato di Baciami Ancora, vi abbiamo parlato di un libro su Playboy che si chiama Playboy and the Making of Good Life in Modern America di Elizabeth Fraterrigo, cercatelo sui siti internazionali. Vi abbiamo parlato di Werner Herzog, vi abbiamo parlato della mortificazione di Philip Roth, vi abbiamo parlato di musica con Angelica Lubian e speriamo di avervi fatto scoprire Lasa, una cantante che è scomparsa di recente. Poi abbiamo parlato di Obama, di politica americana, con un altro libro intitolato Game Change, a firma di Mark Alperlin. Io sono Stefano Pistolini, in redazione c'è Gloria Guerrera, in regia c'è Valerio Rocchetti, abbiamo un profilo Facebook che si chiama Anni 10 e una pagina fan che si chiama Anni 10 Radio 24, abbiamo una mail che è anni10@radio24.it, una replica il sabato sera alle 11 e poi ci ritroviamo qui la domenica mattina. Mi raccomando, siamo nel pieno degli anni 10.